La parola di Dio contiene un'espressione fra le tante che fa molto riflettere. La troviamo nelle lettere agli Ebrei. Secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue. E senza spargimento di sangue non ci è perdono dei peccati. Ebrei 9:22. La prima volta leggendola, pensavo che spargere il sangue per il perdono dei peccati fosse un costume da barbari. È difficile trovare un popolo che non facesse sacrifici cruenti. Alcuni studiosi hanno calcolato che il solo popolo degli Aztechi sacrificasse 20.000 persone l'anno per incontrare il favore della loro divinità. Perciò, da un certo punto di vista, non stupisce che anche gli ebrei avessero un rituale il quale prevedesse lo spargimento del sangue al fine di ottenere il perdono dai peccati. E questo secondo la legge. Però, ciò che faceva differenza tra il popolo ebraico e gli altri popoli era che il popolo di Israele offriva degli animali e non delle persone. Che il popolo di Dio non fosse stato del tutto convinto che Dio non volesse sacrifici umani è evidente, perché purtroppo appena si allontanava dai comandamenti dell'Eterno, anche esso offriva dei sacrifici umani. Eppure l'Eterno li aveva proibiti quando diede la sua legge, e soprattutto con l'esempio del suo atteggiamento nei confronti del loro capostipite Abramo. L'Eterno chiese ad Abramo di sacrificare suo figlio e il patriarca, senza battere ciglio, era pronto a obbedire sacrificandolo. Ma l'Eterno intervenne sostituendo il figlio con un animale. Dunque, secondo il loro codice di fede, gli ebrei dovevano sacrificare ogni giorno degli animali. E questo significava sangue. Sangue, nient'altro che sangue. La vista del sangue certamente non è tanto amabile, al punto che certuni addirittura ne svengono. Ma in qualche modo siamo abituati all'idea del sangue sparso, perché anche se non abbiamo dei riti sanguinari, a proporci del continuo la visione di morti cruente, abbiamo gli spettacoli, la televisione, le guerre. Inoltre, migliaia di persone ogni giorno vengono uccise e torturate, e i film violenti così in voga attualmente riportano un successo pari a quelli del genere erotico. Così, anche se l'argomento potrebbe essere poco attraente, è opportuno fare alcune riflessioni in merito al sangue, ovviamente viste però nell'ottica della parola di Dio. Leggiamo nella legge che Dio ha dato il seguente ordine. Se qualcuno della casa di Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra di voi mangerà sangue, neppure lo straniero che risiede fra di voi mangerà sangue. Levitico 17:10-12. Il sangue per l'Eterno non è un semplice componente del corpo, pari a un braccio o un piede. È la vita stessa della persona e come tale non poteva assolutamente essere mangiato da nessuno, ma solo sparso per togliere i peccati. Il sangue rimane la sostanza più misteriosa del corpo. Noi siamo eredi di Adamo ed Eva perché abbiamo ereditato il loro sangue, poiché a causa della disubbidienza il peccato è entrato in loro e conseguentemente il sangue ne è stato contaminato, tale contaminazione è stata trasmessa ai loro eredi. E così, poiché la morte ha preso possesso del loro corpo, è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Ebrei 9:27. La morte fisica dell'uomo non è dunque un incidente di percorso, ma la conseguenza del peccato. Ma vi è un'altra morte che ha prodotto la morte fisica ed è la morte spirituale, cioè la separazione dal Creatore e vivere secondo la propria volontà e non secondo la sua. Il giorno in cui Adamo ed Eva disubbidirono all'Eterno, morirono quindi spiritualmente. Questa morte spirituale è stata trasmessa ai loro discendenti tramite il sangue. Il sangue è quindi veicolo di vita e di morte. Proprio perché Adamo ed Eva morirono il giorno della loro disubbidienza, l'Eterno li vestì con delle tuniche di pelle. Questo gesto voleva significare che per coprire la loro nudità fisica e spirituale era necessario lo spargimento di sangue, perché non è possibile avere delle pelli senza che l'animale sia morto. Perciò l'ordine di spargere il sangue per la remissione dei peccati era un principio divino, messo in atto fin dall'Eden. Che il sangue per Dio abbia questo valore è dimostrato ancora una volta quando l'Eterno ordina al popolo di Israele schiavo in Egitto di spargere il sangue fuori dalla porta dicendo: «Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto». Esodo mezzogiorno e 13. Perciò, secondo il giudizio divino, l'importante nella vita non è se si sono fatte grandi cose, ma se si è coperti con del sangue. Questo valore che Dio dà al sangue spiega perché Gesù Cristo parlasse molto di esso. Molto probabilmente il discorso più conosciuto in merito al sangue è quello scritto nel capitolo 6 di Giovanni. «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra di loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Giovanni 6, 51-56. Queste parole di Gesù hanno scandalizzato i giudei e anche al giorno d'oggi dà adito a diverbi tra cattolici e protestanti. Per il cattolicesimo Gesù si riferiva al momento della messa, nel quale si beve il sangue di Gesù e si mangia il suo corpo. Ma dopo quello che abbiamo considerato, nessun giudeo o straniero poteva bere del sangue. Gesù, come giudeo, non avrebbe mai ordinato di mangiare delle carne umane e di bere del sangue, e soprattutto il suo sangue. Ciò che Gesù ha detto non lo si può per nessun motivo prendere alla lettera, perché va contro la legge di Dio e contro la cultura millenaria degli ebrei. Il discorso di Gesù era puramente spirituale, perché disse: «Chi crede in me non avrà mai più sete, e ancora le parole che vi dico sono spirito e vita». Se il sangue per la cultura degli ebrei fa l'espiazione, allora l'invito di Gesù a bere il suo sangue è di far proprio il suo sacrificio per avere la vita eterna. Poiché mediante il proprio sangue l'uomo non può ottenere nessun favore da Dio, non gli rimane che accettare il metodo di Dio per essere da lui stesso riscattato col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. 1 Pietro 1:19. Non c'è È alternativa. Dio ha stabilito che senza spargimento di sangue non vi è remissione, e questo comandamento deve essere osservato come ogni altro comandamento. Anzi, forse di più, perché l'ordine categorico non ammette altre possibilità. Era non solo necessario, ma addirittura indispensabile che Cristo Gesù versasse il suo sangue per salvare l'uomo perduto, perché il suo sacrificio cruento agisce in tre direzioni: verso Dio, verso l'uomo e verso Satana. Il sangue di Cristo versato per l'espiazione è prima di tutto indispensabile per Dio affinché l'uomo non cada sotto il suo giudizio. Dio perdona il peccatore non perché chiude un occhio, non perché è buono, ma perché il sangue è stato versato e di conseguenza il debito è saldato per sempre. Se Dio ha detto che il sangue serve per fare espiazione dei peccati, egli non può non perdonare chi pone fede in Cristo. Se noi vogliamo conoscere il valore che ha il sangue di Cristo, per noi dobbiamo innanzitutto accettare ciò che significa per Dio. Noi non abbiamo il diritto di dare un valore diverso da quello di Dio. È come un contratto. Una volta stabilite le condizioni, nessuno ha il diritto di aggiungere o togliere qualcosa. Chi crede in Cristo stipula un patto o un contratto con Dio. Dio ha stabilito che per la salvezza ci sia un atto di fede, e in cambio, il sangue di Cristo cancella completamente ogni colpa. Il valore che noi attribuiamo al sangue di Cristo deve corrispondere a quello attribuitogli da Dio, né più né meno. Se il sangue di Cristo ha soddisfatto Dio, deve bastare per soddisfare anche chi ha posto fede in Lui. Se mentre eravamo lontani, siamo stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo, Efesini 2:13, quanto più ora il credente è sicuro di rimanere alla presenza di Dio. Se il sacrificio cruento di Cristo mi ha reso gradito a Dio, ogni giorno mi presento al suo trono, non basandomi su ciò che ho fatto, ma su quello che Gesù ha fatto. Questo aspetto è così importante che Gesù nell'ultimo incontro con i suoi ordina di ricordarsi di lui con del vino e del pane, intendendo rappresentare mediante questi due simboli il suo sangue e il suo corpo. La cena del Signore parla dell'agnello che ha sparso il suo sangue al nostro posto, come per gli ebrei, gli animali spargevano il loro sangue per rendere giusti i credenti. Se la mia relazione con Dio è iniziata con lo spargimento del sangue di Cristo, essa deve continuare ricorrendo sempre al suo sangue. Questo è l'ABC del Vangelo. Infine, il sangue di Cristo agisce nei confronti di Satana. L'attività più viva di Satana consiste nell'essere accusatore di coloro che hanno posto fede in Gesù. E, quello che leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Mezzogiorno e 10. Se Satana accusa i figli di Dio, il sangue di Cristo ha giusto il compito di proteggere il credente e di porre Dio dalla parte dell'uomo. Se il sangue di Cristo ha tolto la barriera che divideva l'uomo da Dio, Satana rimane uno sconfitto perché il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. Se Dio ora è con coloro che hanno posto fede in Cristo, chi sarà contro di loro? Se chi ha posto fede in Gesù Cristo è stato giustificato, chi lo condannerà? Quando il credente si sente accusato non deve cercare di giustificarsi, non deve trovare qualcosa di buono in se stesso, ma deve soltanto ringraziare e lodare Dio perché, nonostante le accuse che avverte, egli si trova sotto la protezione del sangue di Cristo versato per lui una volta e per sempre. E il libro dell'Apocalisse continua: ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Ecco il valore del sangue di Cristo. Ci rende giusti davanti a Dio, ci permette una continua relazione con Dio, ci protegge dal maligno, ci rende vittoriosi. Parliamo dunque del sangue, ma prima di tutto del sangue di Cristo. Aprile 1977. Febbraio 2005. Ellero.